walking on the promises and the songs of yesterday. And I've made up my mind, I ain't wasting no more time. Here I go. Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street. Aloha, buongiorno passerottini e passerottine care, ben ritrovati qui all'Early Bird Special, tutti i giorni dalle 6 alle 7, questa è la prima colazione che serviamo da Rock FM. Oggi è lunedì, è una giornata dura per tutti perché inizia la settimana, ma insieme ce la faremo alla stragrande. L'Early Bird Special propone grande musica e qualche chiacchiera del vostro vecchio Chuck Bird. Grande musica, dicevamo, e in effetti partiamo alla grande con R.E.M., The One I Love. This one goes out to goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! È solo lunedì, ma Rock FM vi offre un sacco di motivi per rimanere inchiodati a queste frequenze. In questo momento stai ascoltando Early Bird Special, ma dopo di me, pane, burro e rock and roll. E dopo ancora Marco Garavelli e poi Easy Rider e poi il pomeriggio. Ragazzi, veramente c'è da fare di una grande abbuffata di rock and roll. Se avete scelto Rock FM siete delle persone realmente in gamba, ma non ne dubitavo. Joe Mellencamp, un regalo che vi faccio. Questa è Paper on Fire. So she chased after her dream with much desire. But when she got too close to her expectation, her dream burned up like paper and fire. Paper and fire, sticking up the ashtray. Paper and fire, smoking up the alleyways. Who's to say the way a man should spend his day? Like paper and fire. She wanted love with no involvement. So he chased the wind, that's all a city life required. And the days of vanity went on forever. And he saw his days burn up. Paper and fire. Paper and fire. drive right across his green field. And each generation says it from afar. But we keep no check on our appetite. So green fields turn to brown like paper and fire. Paper and fire, sticking up the ashtray. Paper and fire, blowing down the alleyways. Who's to say the way a man should spend his day? He lives smoking like paper and fire. Paper and fire, sticking up the ashtray. Paper and FM. Let them know we tried. It's when the children fight. Let them know. Vi state domandando quali siano gli ingredienti per la colazione del Rock and Roller? Sono qui a dirvela io. È un caffè bello forte, tanto per cominciare. Poi la migliore musica in circolazione nell'etere. E naturalmente qualche bella storiella da rivendere ai colleghi dell'ufficio o ai compagni di scuola. Come la cronaca del primo concerto che i Velvet Underground tennero a Cleveland, in Ohio, nel 1967. Però prima mi voglio gustare i Clash. Voi che ne dite? Io direi di sì. Tommy Gunn. Ormai sono anni che siamo abituati a pensare ai Velvet Underground, la prima band di Lou Reed, come una delle più influenti formazioni della storia della musica rock, al pari dei Beatles e dei Rolling Stones. Ma al tempo dell'uscita del loro album, nel 1967, quello con quella banana disegnata da Andy Warhol in copertina per intenderci, non è che avessero poi quel gran successo. Anzi, anche a New York, che era la loro città natale, non è che li accolsero a braccia aperte. Soprattutto l'ambiente delle radio non li considerava affatto trasmettibili. Così allora non rimase che intraprendere un tour americano, andando a suonare in città non esattamente preparate al loro spettacolo di pura avanguardia rock. Lo scrittore Glenn O'Brien, nel 1967, era ancora studente a Cleveland quando i Velvet Underground arrivarono in un club chiamato Le Cave in Euclid Avenue. Il gruppo era lì a promuovere The Velvet Underground and Nico. Ecco come questo scrittore descrisse la serata. Era un sabato sera e il locale era pieno di gente. I Velvet Underground vennero fuori uno alla volta. Il primo fu John Cale e aveva un aspetto stranissimo. Aveva i capelli molto lunghi e un collare di strass. Non avevo mai visto niente di simile. Poi uscì Mo Tucker, che non si capiva di che sesso fosse. La prima canzone durò circa 20 minuti e Lou Reed fu l'ultimo ad uscire. Era eccezionale. Aveva un collo molto muscoloso e uno strano taglio di capelli da antico romano. Allora era di moda avere i capelli lunghi, ma lui li aveva corti, portava occhiali da sole e suonava una Gibson semiacustica. Noi eravamo seduti lì e pensammo: questi sì, sono marci davvero. We'll be right back. Sweet Chain, che canzone e soprattutto che riff. Ma se parliamo di riff, nulla e nessuno potrà battere questo. Special tutte le mattine dalle 6 alle 7, per voi un sacco di grande musica, per me una tazza di caffè nero bollente. Thank you very much, Cherie. The sound of voices in the night, spellbound. Buongiorno ancora una volta dall'Early Bird Special, la prima colazione che serviamo qui tutte le mattine dalle 6 alle 7 da Rock FM. Grandi storie di rock and roll questa mattina, come quella volta che Iggy Pop rischiò di morire perché voleva cucinarsi un paio di hamburger. Ma prima godiamoci The Cure, Jump in Someone Else's Train. Molte rock and roll star sono morte in maniera piuttosto strana, forse a causa della vita sregolata, certamente per colpa dell'uso e dell'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Iggy Pop nel 1973 rischiò di morire avvelenato dal gas della sua cucina. Una sera, nel suo appartamento di Los Angeles, mescola certi farmaci con un bel po' di liquore, col risultato di rimanere sveglio quasi tutta la notte. La mattina dopo, quando finalmente riesce ad alzarsi dopo qualche ora di sonno agitato, si scopre affamato, proprio come un lupo. Ancora stordito, va in cucina. Tira fuori dal frigo un paio di hamburger, apre il gas, ma non appena si inginocchia per accendere il forno, si ricorda di aver dimenticato i fiammiferi sul tavolo. Fa per rialzarsi, ma all'improvviso i suoi muscoli si bloccano. E resta così, impossibilitato a fare qualsiasi mossa, con la carne che lentamente si scioglie tra le mani e il gas che continua ad uscire. È così inebetito che non riesce nemmeno a gridare aiuto, ma il vicino di casa, fortunatamente, sente l'odore del gas, butta giù la porta e lo trascina fuori. Iggy Pop, mi domando quante volte ha rischiato di lasciarci la sua pellaccia di iguana. Ma eccolo con gli Stooges, all'Early Bird Special. I wanna be your dog! Iggy Pop, un vero birbantello ai suoi tempi. Oggi pare proprio si sia dato una calmata. Pare. La droga e i problemi che crea sono sempre stati all'ordine del giorno delle amministrazioni pubbliche. E non solo. Un'associazione newyorkese per la lotta contro gli stupefacenti distribuì qualche tempo fa agli alunni di una scuola delle matite con incisa la seguente scritta: troppo furbo per drogarmi. All'inizio tutto bene, ma le cose peggiorarono gradualmente con il normale uso. Consumandosi la punta e dovendo le matite essere temperate, il messaggio si trasformava prima in un furbo per drogarmi e poi semplicemente in drogarmi. Ecco un altro che nei suoi anni migliori non lo teneva fermo nessuno. Altro che matite, Alice Cooper. and stuff like some soldier undaunted. To her gesture, smile, I'll stand on fire. She's all I ever wanted. Oh, but you let your blue walls get in the way of these facts. Honey, get your carpetbaggers off my back. You wouldn't even give me time to cover my tracks. You said, here's your mirror and your ball and jacks. But they're not what I came for, and I'm sure you see that too. I came for you, I came for you, but you did not need my urgency. I came for you, I came for you, but your life was one long emergency, and your cloud liners for my electric third degree. We're crawling to my ambulance. Your pulse is getting weak. Oh, be yourself on now to me, girl, while you got the strength to speak. 'Cause they're waiting for you at Bellevue with their oxygen masks. But I can give it all. Take a local joker and teach him how to act. I swear I was never that way even when I really cracked. Didn't you think I knew that you were born with the power of a locomotive? They were leap tall buildings and a single bound. And your Chelsea suicide with no apparent motive. You could laugh and cry in a single sound. Strength is devastating in the face of all these odds. Remember how I kept you waiting when it was my turn to be the guy. You and my crying half so proud when I found you broken on the beach. Remember how I poured salt on your tongue and hung just out. To me like a leech. That medal you wore on your chest always got in the way. Like a little girl with a trophy so soft to buy her way. We were both hitchhikers and just had your ears tuned to the roar of some metal tempered engine on an alien distant shore. So you left to find a better reason than the one we were living for. And it's not that nursery mouth I came back for. It's not the where you're stretched out on the floor. 'Cause I've broken all your windows and I've ran through all your doors. And who am I to ask you to lick my sores? And you should know that's true. I came for you, you, I came for you, but you did not need my urgency. I came for you, you, I came for you. Life was one long emergency and your cloud liners. One my electric surges. For you, solo per voi, passerottine e passerottine care. Questo è l'Early Bird Special che, come tutte le cose belle, ha un inizio e purtroppo anche una fine. Buongiorno caro Chuck. Buongiorno Ariel, è sempre un grosso piacere ospitarti qui nella mia tavola calda. Buona settimana, è sempre un piacere scoprire quante ne sai, ma quella della matita con su scritto troppo furbo per drogarmi, dove l'hai trovata? Ah, queste sono le cose che mi raccontano gli amici anche giù al bar. Prima o poi ti porterò, vedrai che un sacco di cose torneranno utili anche a te per il tuo pane, burro e rock and roll. E a proposito, tra pochissimo inizieranno loro con le loro storielle, le loro invenzioni. Io lo ascolto sempre perché mi fa impazzire. Per tutti, pane, burro, rock and roll. Per il sottoscritto ci sono solo i saluti. Aloha!